visione di ben comunque 40 persone che si trovano all'interno. Dato differente per quanto riguarda Casa Pound, che invece al momento dell'intervento di forze dell'ordine era presidiata da appena 4 neonazisti. Insomma, anche rispetto a un territorio come Mater Dei pare evidente quale sia comunque il peso che le organizzazioni sociali antifasciste hanno rispetto a quelli che ormai possiamo tranquillamente definire i giovani rampoli del premier Berlusconi. E ritorniamo in linea con Napoli invece, che appunto siamo riusciti a ricontattare. Allora, dicevamo, le iniziative della settimana. Allora, dicevamo, noi il 4 ci recheremo al comune, faremo un presidio lì fuori per insomma ribadire comunque la nostra contrarietà alla logica che media e istituzioni stanno avanti, cioè della contrapposizione tra opposti estremisti. E parallelamente a questo noi ci stiamo concentrando sulle ore 12, quindi faremo tante iniziative fino al 12, di cui oggi tra l'altro insomma è la prima di questa settimana, e si tratta di la festa di compleanno dello spazio occupato di Lettere, che è uno spazio occupato di 800 metri quadri, quindi è particolarmente enorme, anche un po' imbarazzante a volte. E nel corso di questa iniziativa noi faremo un'assemblea con i compagni di Militant e di Catania dell'Experia, così insomma da fare un rapporto più complessivo, occupazioni da un lato e se poi la risposta invece repressiva dallo Stato che ci viene imposta più o meno nello stesso modo, ovviamente secondo poi le singole diversità dei singoli posti, però in tutti i casi anche oltre. Così come contro l'antifascismo la risposta delle autorità rimane sempre la stessa, insomma. Quindi gli episodi di Verona, gli episodi di Milano ci fa capire molto come il movimento antifascista necessiti di unità, necessiti di ordine comune, e quindi in questo senso il corteo del 12 è un'ottima possibilità per l'antifascismo che viviamo tutti i giorni nelle nostre singole città, di poter fare un salto di qualità che magari ci possa permettere di essere più incisivi e più anche più insomma decisi in quello che portiamo avanti tutti i giorni. Beh, e direi che insomma a proposito di determinatezza penso a questo punto si possa dire che Napoli non ha da imparare niente da nessuno, anzi continuiamo ovviamente a ovviamente se voi siete contenti lo siamo anche noi, pensiamo che sia importante che per ovviamente far pesare il fatto dell'equidistanza, perché tra nella mancanza di politiche sociali, la mancanza di una risposta alle innumerevoli articolazioni della crisi, gli spazi autogestiti sono sicuramente importanti, come è importante che si mantengano presidi vera e propria democrazia dal basso come quella che è stata dimostrata essere Napoli dal giorno dell'occupazione di Casa Pound nel quartiere Mater Dei. Io non so, se non hai nient'altro da aggiungere ci salutiamo e ovviamente riaggiornandoci ai prossimi appuntamenti. Va benissimo, allora ci aggiorniamo. Un abbraccio. Ti ringrazio. Ciao bye. Ciao. Еще хуже, хрупкий лед реальности под ним, только мрак и стужа. Кроме лучше, будто небеса, стал еще хуже. Плевать, что внутри, покажи то, что снаружи. Затяни бой, стужи, нужен тебе тянут глубже. Выпью твою кровь, а потом кому ты нужен. Весь русский марш стал синонимом толпы фашистов. Менты сдают твоих детей в лапы террористов. Молись истово, а лучше просто сиди дома. вышел магазин, тебя стреляет психопат по голову. Соблюдение закона сказка, как мирный атом. Сотрудник ГНК передознулся конфискатом. Кто-то защищает, выполняет план военкомата. С отбитой селезенкой, неисправным автоматом. Оставайся верным себе и своему делу. В мире полном хаоса, идти вперед смело. Нет вариантов, кроме как стоять до конца. Твоя забота, что осталось от твоей страны. А где бандитских войн и межэтнической вражды? Оцинковых рабов Афгана, Донор, Доста и Беслана. Первая чеченская, потом вторая, как ни странно. Все объяснят с экрана, держи шире карманы. Приняты от твоих убийц для твоей мамы. Камеры, решетки, кровавые ошметки. E le note che sentite in sottofondo sono quelle dei What We Feel, un gruppo russo, un gruppo hardcore russo, in questo caso in collaborazione con un altro gruppo hip hop, sempre appunto di Mosca. Non sono note casuali, visto che è proprio di Russia adesso andiamo a parlare, e ne andiamo a parlare dopo averne anche discusso nelle scorse settimane, non da questi microfoni, visto che, come avrete notato, Maldestra ha fatto una settimana di pausa in cui siamo stati graditi ospiti della coordinadora antifascista madrilegna, che festeggiava per l'appunto i suoi 20 anni. In concomitanza per l'appunto con il felice 34esimo anniversario della morte del codiglio Francisco Franco, per appunto in questo incontro internazionale che ha avuto luogo nella capitale spagnola, che è stato molto centrato anche sulla situazione russa, visto che è avvenuto proprio all'indomani della morte dell'ultimo, purtroppo in ordine di tempo, compagno russo assassinato proprio sotto casa. Нет вариантов, кроме как стоять до конца. Ovviamente di Ivan Kuchorskoy, questo compagno attivista militante particolarmente in vista, non possiamo che ovviamente invitarvi a andare a leggere la storia. Comunque la vicenda particolarmente pesante, perché un omicidio è arrivato dopo ben due attentati alla sua vita personale. La risposta dell'antifascismo moscovita è stata tra l'altro interessante dal punto di vista anche politico, perché proprio gli antifascisti hanno identificato nei giovani russi, nell'organizzazione di Putin, giovanile del partito di Putin, parte della responsabilità di questo omicidio, quantomeno dal punto di vista della relazione politica che si intrattengono con i neonazisti, poi materialmente quasi sicuramente mano dell'omicidio di Ivan Kuchorskoy. Ora, in questi giorni si torna a parlare di Russia, se ne torna a parlare e si parla naturalmente di Russia, Putin e diciamo di Striscio, anche di neonazismo, nel momento in cui come sapete, penso insomma voglio dire un evento particolarmente anche coperto dai media ufficiali, il 27 novembre, pochi giorni fa, l'attentato sul Nevsky Express, il treno Mosca-San Pietroburgo, da subito rivendicato, almeno apparentemente, dalla sigla Combat 18, che insomma è quantomeno una sigla aperta, ormai non ha quasi più senso parlarne in termini reali. Una rivendicazione che poi è stata smentita dalle organizzazioni che lavorano nell'estrema destra dell'arco politico russo da subito. Da lì il balletto delle rivendicazioni, fino ad arrivare ormai a una quasi definitiva, ufficiale posizione su una responsabilità di ceceni o di wahabiti, di fondamentalisti islamici in seno alla stessa società russa. Sometimes, anti-fascist, Eppure questa è una pista che non convince molto, non convince molto tanto appunto gli antifascisti russi, che ovviamente abbiamo cercato anche di contattare prima di insomma di parlare, parlare a sproposito, quanto anche una insomma quanto la stampa indipendente russa. Leggiamo un pezzo preso da Lettera 22 a firma di Lucia Sgueglia, comunque una voce anche abbastanza, per quanto ci riguarda, comunque abbastanza comune per quanto riguarda aggiornamenti sulle cose russe, specialmente sulle i nuovi nazionalismi, e che prende come, diciamo, come buona una tesi molto vicina a quello che è un, diciamo, una sorta di strategia della tensione, un parallelismo inquietante con attentati che nel 99 avevano già insanguinato Mosca con oltre 300 morti e che avevano rappresentato nell'immaginario comunque collettivo russo una vera e propria accelerazione del processo autoritario putiniano. E quindi, diciamo, lasciando le parole direttamente all'articolo chiamato Nevsky Express, le indagini e le due piste, appunto cerchiamo un po' di fare un po' una, mettere un po' una voce intorno a questa vicenda. Corpo tozzo, 40 anni, zigomi larghi, occhi a lama, capelli rossi, orecchie aderenti alla testa, labbra sottili e naso largo. È il volto del sospetto numero uno per gli investigatori russi della tragedia del Nevsky Express deragliato venerdì sera. Un attentato terroristico senza dubbio per le autorità, giudizio affrettato, dicono invece alcuni esperti. Al secondo giorno di indagini il bilancio è di 26 morti e 12 dispersi. La pista neonazista sul web russo pare perdere terreno a favore dell'ipotesi dell'estremismo caucasico. L'uomo dell'identikit sarebbe stato visto aggirarsi sul luogo della sciagura poco prima. Quel volto, per molte fonti non confermato ufficialmente, somiglia a un nome. Si tratta di Pavel Kozolapov, già ricercato per l'esplosione al Nevsky del 2007. Alla macchia da 5 anni, noto ai servizi segreti, ex militare di Volgograd, convertito all'Islam, poi passato alla causa indipendentista al fianco di Shamil Basayev, leader dei ribelli ceceni oltranzisti, ucciso dai federali nel 2006. Kozolapov, addestrato da arabi e impratichito in Cecenia, per i servizi sarebbe stato inviato da Basayev a compiere attentati in Russia grazie al suo aspetto slavo. Opera sua sarebbero le bombe al metro di Mosca del febbraio 2004, 42 vittime, quella alla fermata dei bus a Samara e Voronezh, forse Dubrovka e Beslan. Nel marzo 2005 a Liubertsi, in un appartamento affittato a suo nome, fu trovato un arsenale, lanciagranate incluse e orologi Casio, che sempre userebbe per sincronizzare i propri ordigni esplosivi. Strano però, nota qualche commentatore, che il capo di un gruppo di sabotatori affitti una stanza col suo passaporto, lasciando briciole come Hansel e Gretel. Insomma, nella Russia in crisi la strategia della tensione resta un'ipotesi. Ad avvalorarla è Yulia Latinia, giornalista molto critica della pacificazione putiniana nel Caucaso. Negli ultimi mesi incrinata da nuovi attentati, violenze e vittime, da Grozny a Nazran a Makachakla. Ovviamente noi sulla toponomastica insomma ci affidiamo al caso. Il brutto, dice la reporter su Radio Eco, invitando a non sottovalutare la matrice neonazista che quest'anno ha firmato i delitti di Marklov Baburova e dei militanti antifascisti, è la sensazione che sia solo l'inizio. Wahhabiti o fascisti, aggiunge. Le due piste hanno in comune l'assoluta impunità e disintegrazione dello Stato. E ricorda che il principale indiziato delle bombe del 99 a Mosca, 300 morti, Achemienets Gociaev, più volte fermato dalla polizia, resta a piede libero. È come un appartamento trasandato, se è pieno di spazzatura, dal serbatoio escono fuori gli scarafaggi. Intanto qualcuno tace. È Vladimir Putin, che non rilascia nessun commento da 3 giorni. L'articolo, ripetiamo, tra l'altro dovrebbe uscire quest'oggi stesso sul Messaggero, così come appunto è su www.lettera22.it a firma di Lucia Sgueglia, e pensiamo sia ovviamente importante insomma che venga approfondita questa informazione, dato che tra l'altro i media ufficiali italiani ormai sono solamente pendono dalle labbra delle agenzie russe, e quindi dalla stessa informazione assolutamente discutibile proveniente dagli ambienti del Cremlino. When I was younger, I lived in fear that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. Faire les 400 coups, mourir, je plus de vivre à genoux. Les potes, ton pétarage. T'as choisi des voyous plutôt d'être sage. T'es heureux, t'es toujours en guerre. T'as gardé en toi les souvenirs d'hier. Comme une lueur d'espoir pour l'avenir. Te dire que le mal pourra être pire. E alle 12:54 minuti primi voltiamo pagina, andiamo alla nostra ormai consueta finestra internazionale con una delle nostre voci più affezionate. Ci senti? Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Prima che tu ci dica che ti censuriamo e ti diamo poco spazio per parlare, ti diamo direttamente la parola in modo che tu possa sfruttare al massimo questa tua finestra, visto che andiamo a parlare con te di un argomento che è anche molto coperto anche dai media ufficiali in questo momento, ma sicuramente tu ci darai anche una chiave di lettura in qualche modo sicuramente più stimolante ed interessante, ovvero il referendum svizzero, quello che per l'appunto ha bloccato la costruzione dei minareti nel paese elvetico, giusto? Sì, diciamo che la cosa interessante dal nostro punto di vista, che arriva dalla Svizzera, dal punto di vista diciamo di un ragionamento sulle culture di destra, è il diffondersi in qualche modo in Europa di questo interrogativo identitario che ha come fondo la presenza di milioni di cittadini musulmani, evidentemente frutto della crescere diciamo dell'emigrazione in Europa, o anche di seconde generazioni, vale a dire di giovani figli di immigrati nati e cresciuti e scolarizzati in Europa. Perché questo elemento è interessante? Ma perché costruisce una geografia che, al di là del caso svizzero, in Svizzera un partito che si chiama Unione di Centro e nei cantoni di lingua francese, Partito Popolare Svizzero nei cantoni di lingua tedesca, un partito che nell'ultimo decennio, guidato da Christoph Blocher, che è un industriale di qualche diciamo nell'economia svizzera, si è imposto all'attenzione generale radicalizzando temi in parte tradizionali, quindi la polemica rispetto alle tassazione, un'accentuazione del ruolo super partes in qualche modo della Svizzera sul piano internazionale, quindi il suo non ricadere nelle conseguenze degli accordi internazionali. Tra l'altro in questi giorni si votava in Svizzera per bloccare l'esportazione delle armi di cui il paese è un grande produttore, e anche quel referendum è stato vinto dalla destra, che appunto è riuscito a imporre il no al blocco delle limitazioni. Accanto a questi elementi, l'UDC di Blocher, diventando progressivamente il primo partito, prima nei cantoni di lingua tedesca, Zurigo in particolare, e poi estendendo questa cosa anche ai cantoni di lingua francese e in parte nel Ticino, quindi diventando a tutti gli effetti la forza politica più importante della Svizzera, ha affiancato a questi elementi tradizionali una crescente polemica nei confronti dell'immigrazione e un approccio diciamo islamofobico alla presenza in particolare dei musulmani. Il punto è che questo elemento diciamo radicale che attraversa oggi l'Europa e di qualche mese fa l'iniziativa di una manifestazione europea contro la costruzione di una moschea a Colonia, forse gli ascoltatori lo ricorderanno, si mobilitò in quel caso anche Borghezio dell'Italia e altri leghisti e un bel pezzo della destra radicale europea a fianco, diciamo, di un comitato di cittadini, ma insomma in realtà di un cartello di forze di destra in quel di Colonia. Questo però elemento attraversa un po' tutta l'Europa, nel senso che di queste settimane il dibattito su immigrazione e identità nazionale proposto da Sarkozy in Francia, con lo sfondo, diciamo, di rivedere un po' l'idea di chi sia davvero cittadino francese, di chi sia davvero parte dell'identità nazionale, chi sia invece legato ai fenomeni dell'immigrazione, quindi diciamo una ridefinizione della partecipazione della cittadinanza in quel della Francia. Questo scenario non è legato, è relegato ai margini, all'estremo della destra politica, ma attraversa di fatto l'intero campo delle destre populiste nella loro alleanza anche spesso con le destre di impostazione conservatrice. Questa mi sembra la chiave e ovviamente è una chiave molto preoccupante, visto che in Italia questo tipo di abbraccio tra populismo e conservatorismo più o meno rinnovato è all'insegna, diciamo, dell'alleanza berlusconiana degli ultimi 15 anni. Questo mi sembra il contesto, al di là del fatto che oggi in Italia ci sia chi dice dentro la coalizione di governo sì o no ai referendum sui minareti. Questo mi sembra l'elemento, mi sembra, diciamo, un elemento che tende a mantenere aperta una guerra e un conflitto che, se gli si vuole dare una data, è stata diciamo identificata con le vicende intorno all'11 settembre del 2001, ma che in questi anni aveva trovato una diversa collocazione, una sorta di soluzione all'interno delle società europee. Riproporre costantemente l'idea che ci sia un elemento estraneo, un elemento in qualche modo minaccioso, tiene aperta, diciamo, questo scenario di guerra che può portare voti a chi sulla paura e sulla cultura della guerra ha prosperato in questi anni. Ecco, questo mi sembra un po' il quadro. Allora, ovviamente sei stato precisissimo. Pronto? Sì. Ah, ok. Ti ringrazio ovviamente per quanto sei stato sollecito nell'accogliere il nostro invito. Giusto magari una questione. Adesso, diciamo, sta sulle pagine, le prime pagine presenti di tutta Italia questo risultato, perché rischia di rappresentare ovviamente un pericoloso precedente. Questo testimone ti dà l'idea che possa essere raccolto da qualcuno in questo momento, all'idea di quello che abbiamo già precedenti illustri nel nostro paese, anche dal punto di vista, perché almeno così, insomma, viene agitato sulle nostre prime pagine online, quantomeno? Ma io credo che non, visto che la Lega a livello territoriale sovente propone iniziative di questo segno, diciamo, i casi italiani ci sono già, insomma. Il punto è che credo che oggi alla destra non interessi tanto cavalcare esplicitamente nel caso italiano, diciamo, una vicenda del genere, quanto piuttosto tenerla come sfondo, cioè continuare a riproporre il tema della presenza di altre culture nello spazio pubblico europeo come un elemento complicato, complesso, cioè il fatto che la maggioranza dei cittadini svizzeri, non, come dire, di un paese marginale, ma di un paese ricco, potente, con il suo ruolo internazionale, anche se con una cultura molto particolare, si siano espressi in questo modo, alimenta il fatto che qui da noi si possa continuare a dire, vedete, persino gli svizzeri non proprio, diciamo, dei campioni della xenofobia, anche se poi ci sarebbe molto da dire, visto che lì in Svizzera hanno cominciato a fare referendum contro la presenza degli immigrati italiani già alla fine degli anni 60, ma insomma persino gli svizzeri vivono male la presenza islamica. Ecco lì che, come dire, anche noi ci dobbiamo porre qualche problema. Credo che incassino soprattutto questo elemento i sostenitori in Italia, diciamo gli ultimi apologeti italiani dello scontro di civiltà che si pensava in qualche modo messo in soffitta. Ecco, questo mi sembra l'elemento, cioè un buon risultato per chi vuol continuare a dire, invece di parlare di convivenza, di culture comuni, di costruzione di spazi comuni, continuiamo a separare, a dividere, e nella divisione alimentiamo la paura reciproca. Questo mi sembra il segnale maggiore, insomma. Va bene, senti, io non so se tu hai qualcosa da aggiungere, oppure alle 13.01 cominciamo a fare anche i saluti. No, vi lascio rispettando pienamente l'orario. Veramente sei stato bravissimo, ti ringraziamo e no. Allora ci risentiamo probabilmente la settimana prossima. Un abbraccio a te intanto. Ciao. Ciao. So the promise of an Aryan world would never materialize. So why did they all come out of the woodwork on the day the Nazi died? Allora alle 13 e due minuti primi in chiusura della trasmissione odierna di Maldestra appunto ci lasciamo con un pensiero a una persona che ci ha lasciato, un compagno che era anche in qualche modo un amico di questa trasmissione, che è stato salutato nella giornata di sabato da tutti appunto i suoi amici. Noi lo ricordiamo con una canzone, non sappiamo se neanche se gli sarebbe piaciuta, però noi è il modo anche in cui ci sentiamo di ricordarlo. Questa è per te, ciao Federi. Younger, I lived in fear that incarceration of some kind is near. I checked my head, intact with rules. I nearly became a goddamn fool. But I've heard voices, not in the head, out in the air. They called ahead through ripped out speakers, through thick and thin. They found a shelter under my skin. How many darkest moments and traps no end of us. How many final frontiers we gonna mount, and maybe no victory left. But if you stepped on path of sacred art, stuck it out through thick and thin. And now to become the one with indestructible. And so no longer live I in fear. Them are too greedy to pay my asylum bills. This is my life and freedom's my profession. Throughout the whole flight duration, there is a core, and it's hardcore. All is hardcore when made with love. The love is voice of savage soul. The savage love is indestructible. How many darkest moments and a trap still ahead of us? We're gonna mount with maybe no victory left. But if you stepped on path of sacred art and stuck it out through thick and thin, or not, you'll become the one with indestructible.